chiedo solo a Dio che apra i miei occhi con i suoi sguardi lenti, mi spinga avanti. Credo in un solo Dio che morda il mio cuore duro, brilli di un sole vero, stracci i miei sogni. Non è così, io non ho pregato mai, ma c'è stato sempre chi ha risposto a più di una domanda dentro di me. Ma sarà per fantasia che ho trovato dentro me sempre più di una certezza. Credo in un solo Dio che spacchi i miei giorni e brucino anche i mesi nei freddi inverni. Non ho che te e ti prego di andar via, mia speranza amica mia, sei più calda tu di una coperta, ma è con te che ho perduto l'allegria, il mio cuore è andato su e si è perso. Dio che tocchi il mio sentimento, ma deve stare attento ai miei rimorsi. Credo in un solo Dio che pesti i miei piedi stanchi, perché non si va avanti senza dolori.